Allora, restate in ascolto, tra qualche minuto comincia Entropia Massima. E allora, ben trovati e bentrovati, un abbraccio particolare a chi ci ascolta dietro le sbarre o privato o privata della propria libertà personale. Questi sono gli 87.9 di modulazione di frequenza e la trasmissione che state ascoltando è Entropia Massima. Il tema di oggi riguarda l'asse tecnologia e rivoluzione che quest'anno stiamo portando avanti, sempre parlando di intelligenza artificiale. Ormai siamo giunti già al quinto appuntamento e iniziamo subito, entriamo nel vivo, dato che abbiamo iniziato con un po' di ritardo. Allora, eravamo rimasti a dire che l'introduzione di queste tecnologie portavano, insomma, nuove convinzioni che avrebbero potuto cambiare anche non solo le ideologie che possono nascere in un futuro di questo genere, ma addirittura potevano introdurre delle vere e proprie religioni. Ecco, oggi, partendo da questo discorso un po' fantasioso, ma come vedremo abbastanza verosimile, parliamo un po' di come il pensiero umano sta cambiando, potrebbe cambiare, come questo potrebbe creare la nascita addirittura di nuovi culti. Non saranno quindi le grotte afghane o le madrasse medio orientali a vedere, diciamo, la nascita di nuove religioni, ma saranno i laboratori di ricerca, quindi la tecnologia. Infatti si parla anche di tecno-religioni, tecnologia che apre nuovi scenari anche filosofici, e quindi di fatto, insomma, come una religione promette delle cose, perché poi questo è il gioco delle religioni, quello di promettere felicità, pace, prosperità, vita eterna. Questo promettono le religioni, questo promette anche il tecno-umanesimo, di cui parleremo oggi, che è una religione che ha molto poco a che vedere con Dio e invece molto a che vedere con la tecnologia. E niente, vediamo insomma che queste promesse, le promesse classiche, appunto la felicità, la pace e la vita eterna, non vengono promesse in una vita dopo la morte, come fanno le religioni tradizionali, ma direttamente in terra addirittura, compresa la vita eterna. Abbiamo parlato già di questo in puntate diciamo anche lo scorso anno, al di fuori del ciclo intelligenza artificiale, no? Quando abbiamo parlato del tecno-umanesimo. E l'altra tendenza invece è quella della religione dei dati, che oggi non vedremo, ce la teniamo per la prossima puntata, no? Quindi l'idea che i dati siano più importanti dell'essere umano stesso e che l'essere umano abbia completato il suo compito cosmico e quindi ormai passa la fiacco a delle nuove entità che sono quindi l'informazione stessa, quindi un'idea ancora più spinta, un po' bizzarra. Ma la vediamo la prossima volta. Invece vediamo appunto un po' di più, di parlare di tecno-umanesimo. E allora, diciamo, l'umanesimo tradizionale, nelle sue varie correnti, ma in generale, vede l'uomo, l'essere umano, come il vertice del creato. Solo che al momento sembra che l'Homo sapiens abbia esaurito il suo scopo, il suo ruolo all'interno di questa ideologia umanista, e quindi attraverso la tecnologia è ora possibile creare una nuova specie umana detta Homo Deus, no? Dal titolo del libro di Yuval Harari che noi stiamo seguendo in questo percorso sull'intelligenza artificiale. Quindi un uomo che è in grado di creare, Homo Deus, no? Che ha delle abilità fisiche e mentali avanzate perché nel frattempo gli algoritmi sono diventati sempre più intelligenti, appunto, e un'intelligenza priva di coscienza è estremamente più veloce ed efficiente, quindi viaggia ad una velocità spaventosa. E quindi, dicono i tecnoumanisti, l'essere umano deve aggiornare la sua mente, deve proprio fare, diciamo, dei cambiamenti all'interno della propria mente. Vediamo un po': 70.000 anni fa ci fu la cosiddetta rivoluzione cognitiva, e quindi questa curiosa scimmia africana si trasforma poi in 70.000 anni in padrona assoluta del mondo. E questo è stato possibile perché si è creato l'intersoggettivo, cioè questi gruppi di animali, questi Homo sapiens di 70.000 anni fa erano nati per costituire piccole comunità, e quindi come si può arrivare a cooperare a livello globale? Se ti inventi delle credenze che valgono per tutti, la divinità è una di queste, no? Ma anche le strutture sociali stesse sono pure invenzioni. Le città te la inventi, il concetto di città, il concetto di impero, e tutti credono a questo concetto, e quindi questo è il dominio dell'intersoggettivo. Anche il denaro, no? Se vogliamo, fa parte della stessa categoria di entità intersoggettive. Comunque, grazie a questo essere è riuscito a poi nel tempo a scindere l'atomo e andare sulla Luna. Ebbene, cosa è successo nella mente di questo animale nel passaggio, appunto, che si data intorno a 70.000 anni fa? Pochissimi cambiamenti nel DNA e qualche contenuta riorganizzazione dei circuiti cerebrali, quindi piccoli cambiamenti al genoma, una piccola riorganizzazione del cervello, e questo fu tutto quello che avvenne. Ebbene, perché oggi non può avvenire qualcosa del genere, cioè un'altra rivoluzione di questo tipo qui? Allora, i tecnoumanisti dicono, appunto, possiamo noi favorire la nascita di questo nuovo essere. E quindi qui ovviamente pensiamo subito al superomismo, no? È ovvio. Quindi c'è questo, in fondo anche il superomismo era comunque una corrente dell'umanesimo, l'umanesimo evoluzionista. Quindi Hitler voleva fare tutto questo con la procreazione selettiva e la pulizia etnica, invece oggi c'è l'ingegneria genetica, ci sono le nanotecnologie e, come vedremo, ci sono le interfacce cervello-computer che fanno un po' paura, la ricerca va spedita, poi nel mondo del militare vengono già utilizzate, come vedremo, e quello che sembra fantascienza invece può rapidamente diventare realtà, anche perché con la velocità con cui le cose vanno avanti è meglio che ne parliamo, meglio che ne parliamo adesso, che già forse è tardi. Quindi come si fa ad aprire un varco nella mente, quindi a potenziare, no, la mente umana, ad aprirla a nuovi stati di coscienza? Ma in realtà noi non conosciamo bene la nostra mente da un punto di vista scientifico, non ne comprendiamo ancora pienamente la natura, come prende forma, quale sia la funzione della mente. Quindi non sapendo neanche bene come manipolarla, non ci poniamo neanche dei traguardi, no? Quindi non è che diciamo noi vogliamo arrivare a questo obiettivo, cioè non la conosciamo, non sappiamo bene come manipolarla e non sappiamo che traguardi porci. È un po' preoccupante, no? Che invece, a dispetto di questo, le cose vadano così veloci. C'è da fare tutto un discorso su qual è l'insieme delle esperienze di un essere umano e come queste esperienze sono variate nel tempo, per vedere se è possibile ipotizzare un'ulteriore rivoluzione. Per dirlo basta considerare la enorme quantità, moltitudine di stati mentali possibili. Già se pensiamo ai disordini psichiatrici, le malattie mentali, l'autismo, la schizofrenia, aprono degli scenari enormi, no? Ancora non del tutto noti, peraltro, che appunto analizzando persone che hanno delle capacità ridotte di provare sentimenti, comunicare, pensare. Poi altro problema, ma quando gli scienziati fanno questi esperimenti a chi si riferiscono? Beh, generalmente si riferiscono a una categoria di persone che tipicamente sono cosiddette weird, W-E-I-R-D, cioè Western Educated Industrialized Rich and Democratic, quindi appunto persona scolarizzata occidentale di un occidente industrializzato ricco e democratico. Queste sono le persone che in genere fanno parte degli esperimenti. Uno potrebbe dire sì, perché sono quelli che finanziano e quindi se le fanno sulla loro, sul loro particolare, no? Però noi riflettiamo dicendo sì, ci sono tanti altri spettri mentali che non conosciamo, per esempio cacciatori raccoglitori del deserto Kalahari, che esperienze mentali possono avere? Non ne possiamo neanche immaginare, ma probabilmente neanche, senza andare così lontano, già nella periferia di Boston rispetto a uno studente di psicologia più ricco può offrire esperienze all'essere umano molto diverse. Poi è anche vero che oggi siamo nel cosiddetto villaggio globale, quindi queste differenze pian pianino si stanno assottigliando, no? E poi voglio dire, non è che uno non ha mai visto l'Occidente, ci sono missionari cristiani ricchi ecoturisti oppure ricercatori, no? Come quelli di cui parliamo, no? Che fanno questi esperimenti, commercianti, cioè, insomma, un po' la faccenda si va uniformando. Però sta di fatto che oltre che nello spazio anche nel tempo è variata la nostra esperienza mentale, no? Se pensiamo appunto agli uomini di 70.000 anni fa di cui parlavamo, evidentemente avevano un tipo di esperienze completamente diverse. Oggi in molti provano poi anche ad esplorare la meditazione, l'uso di droghe, le cerimonie rituali, che sono tutti modi ulteriori, no? Per esplorare parti sempre più remote della mente umana. Allora, immaginiamo sciamani, monaci, ascetiche che esplorano questi territori della mente, no? E ci raccontano in qualche caso di essere stati in una tranquillità suprema, oppure di aver provato un'altra cosa che si dice spesso, acutezza mentale, cioè chiarezza, no? Proprio mentale. Oppure una impareggiabile sensibilità, cioè appunto esperienza di chi prova questo genere di esperienze, cioè di cose, di chi si droga, riscontrare anche questo. Dopodiché, appunto, nella società umanista, se uno fa queste cose viene spesso considerato o un malato di mente o un tossicodipendente o un ciarlatano, quindi c'è anche questo ulteriore aspetto, no? E quindi questo contribuisce a rendere sempre più oscuro quello che è la mente umana. Per esempio anche i Neanderthal, no? È addirittura un'altra specie, quindi usciamo fuori da Homo sapiens e andiamo a Homo Neanderthalensis, no? Vissuto 50.000 anni fa, quindi anche insieme a Homo sapiens per un lungo periodo, come sappiamo, no? I Neanderthal non fondarono imperi, non costruirono piramidi, però avevano un cervello più grande di sapiens. Che facevano con quei neuroni in più che ci avevano? Non si sa. Però, per esempio, a febbraio 2018, quindi proprio adesso, hanno trovato delle pitture rupestri, no? Il primo ritrovamento di questo tipo, appunto fatte da Neanderthal, ed è una roba eccezionale, perché non si sapeva che anche loro in quel periodo stavano sviluppando queste abilità ritenute appannaggio di Homo sapiens, no? Ok, e poi vogliamo complicare ancora di più le cose? Questa mente, no? Mica ci sta solo l'essere umano, no? Ci sono anche altri animali, no? Allora, uno immagina il pipistrello. Il pipistrello fa la ecolocazione, no? Come si dice, quindi lui lancia degli ultrasuoni e riceve echi di ritorno, e questo gli fa conoscere lo spazio intorno a sé. Tanto che riescono a volare tra alberi, palazzi, e inseguono zanzare, inseguono falene, evitano i predatori come i gufi. I pipistrelli vivono in un mondo di echi, in un mondo che per loro ha perfettamente senso. Ci sono alcune falene commestibili e altre velenose, e con un eco sulle ali delle falene sono in grado di distinguere una falena commestibile da una velenosa. Quindi insomma noi che ne sappiamo, no? E poi, parlando delle falene, no, ci sono anche quelle che riescono a deviare l'ego del pipistrello, quindi si comportano come degli aerei stealth che riescono a deviare le onde che riceve, diciamo, da un radar, no? Poi noi viviamo in un mondo, appunto, in cui vediamo con gli occhi, quindi per noi l'amore è rosso, l'invidia è verde, la depressione è nera, ma con gli echi com'è? Cioè, come si descrive con degli echi amore, rivalità, stanchezza, come si descrive? Oppure le balene hanno un sistema limbico più evoluto di quello umano. Ci sono delle aree, il sistema, appunto, limbico, che è un sistema cerebrale, che mancano nell'essere umano. Allora, a cosa servono? Qualcuno ha ipotizzato, siccome il sistema limbico serve per le emozioni, può darsi che abbiano delle emozioni più profonde, più complesse, magari più di Bach o Mozart, no? Per dire, no? Per fare una battuta. Sappiamo che le balene, per esempio, cantano e si creano dei canti che poi, mano a mano, vengono adottati da altre balene anche a distanza di molti chilometri. Ecco, quindi questo, insomma, solo per dire che, insomma, la faccenda è complessa. Gli stati mentali sono tanti, la mente è un oggetto estremamente complesso. E poi vogliamo proprio metterci, diciamo, sopra una briscola. Noi viviamo qui, animali che vivono su questo pianeta ci vivono da 4,5 miliardi di anni, no? Quindi magari ci sono degli stati mentali che altrove, che nessun sapiens, pipistrello o dinosauro che si è estinto hanno provato. Ecco, vabbè. Forse è arrivato il momento di prenderci una pausa. E allora, torniamo in diretta. Questi erano i Cool Chamber con Loco, un pezzo che dedichiamo ai Roncola. Riprendiamo a parlare di mente umana. E diciamo che al sistema non importa granché delle varie possibili dei vari possibili meandri della mente umana, cioè non è con le emozioni più profonde o più complesse che si governa il mondo. Quindi il discorso può essere anche interrotto così, che il sistema farà sempre in modo che ad essere sviluppate siano quelle capacità mentali di un essere che sono funzionali al suo sviluppo, no? È evidente questo, quindi mettiamoci una pietra sopra, insomma, le cose sono così, così, diciamo, né più né meno. I medici, gli ingegneri e i loro clienti, soprattutto, oggi non vogliono risolvere i problemi mentali, no? Come si diceva anche quando si parlava di medicina nelle puntate precedenti, non è più quello il discorso, no? Vogliono potenziare la propria mente, i clienti di questi medici e ingegneri odierni. Quindi anche qui, più nello specifico della mente, si può dire la stessa cosa che abbiamo detto per la sanità in generale: c'è una sanità che non cura ma che potenzia, e ci sono ovviamente ricchissimi che chiedono queste cose, e a richiederle quindi è il sistema politico ed economico stesso, come dicevamo. Quindi in genere il sistema plasma le nostre menti in funzione di quali sono le sue personali esigenze. E allora, prima bastava che nei 70.000 anni fa bastava che Homo sapiens stesse in comunità, e quindi aveva sviluppato determinate caratteristiche mentali oltre che fisiche per vivere in piccole comunità, e poi siamo arrivati agli imperi, no? E questo, per farlo, quello che ha dovuto sviluppare è la cooperazione su larga scala, no? che non si riscontra in altre specie animali, almeno fino adesso, no? o quelle che conosciamo, no? La cooperazione su larga scala è un'abilità che ha sviluppato Homo sapiens, che gli ha permesso di portarsi al vertice della catena alimentare mondiale e nonché del dominio assoluto del pianeta, insomma, no? Basti pensare al numero che siamo, no? Sul pianeta, che appunto parliamo di 6 miliardi, e basta pensare al numero di animali addomesticati che ci sono nel pianeta, no? Si parla di miliardi, no, non milioni, miliardi di mucche, no? 20 miliardi di mucche, piuttosto che, no, 20 miliardi di polli, scusate, e sì, 10 miliardi di mucche, roba di questo genere. Cioè parliamo di miliardi di animali addomesticati, mentre gli animali selvatici tendono sempre di più ad estinguersi, ce ne sono pochissimi, no? Faremo una puntata su questo a parte. E va bene, per esempio il senso dell'olfatto è una cosa che avevamo come specie, e nel tempo questa cosa si è persa. Con l'olfatto si riesce, Homo sapiens riusciva con l'olfatto a distinguere diverse specie, e addirittura a discernere degli individui, ovviamente, ma soprattutto delle emozioni. Cioè la paura, per esempio, ha un suo odore dovuto al fatto che vengono secreti degli odori particolari, no? Quando si prova paura, e quindi se uno della tua stessa specie che è lì vicino può sentirla la paura. Ecco, questo ce l'avevamo, per esempio, nel Mosaico, non ce l'abbiamo più, no? Pensate, che ne so, un generale, no, di un esercito dell'impero romano, che poteva sentire l'odore dell'opinione pubblica prima di una guerra, no? Facendo una battuta, chissà, forse l'aveva già persa per allora. Quindi i nasi non servono. Allora che cosa serve al sistema? Beh, serve lettura, matematica, ragionamento astratto, ed ecco perché stiamo andando verso questo tipo di stimolazione culturale, d'accordo, ma qui si parla proprio di stimolarla artificialmente, cioè di andare a toccare il cervello, l'area del cervello, per potenziarlo. I cacciatori raccoglitori fiutavano, si muovevano in maniera molto circospetta nei luoghi, meticolosamente osservavano ogni piccolo dettaglio. E quando andavano a raccogliere funghi ne assaggiavano una quantità piccolissima, ben sapendo che doveva essere davvero piccola, no, per assaggiarne la velenosità. Questo era quello che facevano, e questa attenzione oggi non serve più. Oggi abbiamo il supermercato, vai, te compri il fungo e te lo mangi, non è che lo assaggi, no? o lo annusi. Diciamo che sappiamo anche che l'industria alimentare in realtà non c'è così da fidarsi, no? Però deleghiamo diciamo il controllo a qualcun altro e ci fidiamo. E poi, che ne so, oggi, per esempio, tanto per parlare male un po' di noi, oggi abbiamo la possibilità tecnologica di andare a casa di un amico che abita dall'altra parte della città, ma poi siamo tutto il tempo a guardare lo smartphone perché ci abbiamo questa fear of missing out, paura di perdersi qualcosa, che non perdersi un tweet, un post o quant'altro, no? Sono abilità anche quelle. E diciamo che un'altra cosa che abbiamo perso, oltre all'olfatto, è la capacità di sognare. ma è vero, cioè non è che lo dico in maniera metaforica. Oggi la dimensione onirica è tenuta molto diciamo al lato, no, del discorso pubblico. Nella migliore delle ipotesi si può parlare di messaggi subconsci con chi si occupa di questo. Nella peggiore delle ipotesi il sogno non è altro che della spazzatura mentale, quindi viene considerato niente, è nulla. E se chiediamo a qualcuno che cosa ha sognato, diciamo io non sogno, oppure io non me lo ricordo, oppure non mi importa. Bene, avendo perso l'olfatto e avendo perso l'attenzione, avendo perso la capacità di sognare, la nostra vita è diventata più grigia? Può darsi. Ma al sistema politico ed economico non interessa minimamente questa cosa. Non è questo che conta. Il capo dice che stai lì ad annusare fiori o a sognare mondi incantati? Controlla la posta e lavora. Ecco, come si fa? Veniamo al dunque, no? Come si fa allora a stimolare alcune parti del cervello per potenziarle? Beh, stanno facendo su questo degli esperimenti con i caschi neurali, come forse chi ci ascolta già sentito, se ne parla anche un pochino, no? Nei media mainstream, quindi non è una cosa così nuova. Questi caschi neurali dovrebbero aiutare chi li indossa a focalizzare meglio dei compiti specifici e a velocizzare dei processi decisionali. Quindi, siccome il sistema ha bisogno di persone che focalizzano subito un obiettivo e riescono a prendere una decisione rapidamente, senza indugiare a dubbi o a riconsiderazioni, subito si mette a prendere una decisione. Però attenzione che questo tipo di approccio riduce un po' l'empatia, che è un'altra nostra caratteristica, no? Cioè la capacità di sentire quello che gli altri stanno provando. Riduce anche la capacità che abbiamo di dare ascolto ai dubbi e ai conflitti magari interiori, no? O dubbi esterni o conflitti interiori. Quindi se dobbiamo diventare esseri che prendono decisioni rapidamente, dobbiamo mettere da parte i dubbi, i conflitti, dobbiamo ridurre l'empatia, quindi insomma si sa che ma è stato proprio provato scientificamente, quello che gli umani vogliono sentire quando sono tristi da altri umani è essere ascoltati. Quindi non una soluzione rapida del tipo allora fai così, basta. Ho problemi al lavoro, allora o ti licenzi oppure continua e zitto. Beh, certo, questo lo sapevo già, no? Quindi ciò che invece un essere umano vuol sentirsi dire vuol sentirsi, diciamo, da un amico è per esempio essere ascoltato. Questo genere di approcci, diciamo, quando ti metti un casco non puoi essere un amico paziente, no? È tutto il contrario. Quindi potremmo poi perdere la capacità di tollerare la confusione, i dubbi, le contraddizioni, e quindi esattamente come abbiamo perso l'olfatto, l'attenzione e la capacità di sognare. Ricordiamoci sempre quello che abbiamo detto all'inizio: della mente ne sappiamo poco, la sappiamo manipolare poco, e gli interessi dei governi, degli stati, degli eserciti, delle aziende sono molto molto specifici. Quindi è chiaro che pensare a guai è lecito, è più che lecito, no, in situazioni di questo genere. In sostanza questi caschi neurali sembra che facciano perdere delle doti umane che intralciano il sistema, no? E chi alleva sa bene che la capra più intelligente è sempre quella che fa guai, no? E quindi la rivoluzione agricola ha fatto proprio in modo di creare delle specie allevate meno intelligenti, no? Quindi meno ribelli, meno appunto quello che dovevano fare era rimanere il più vicino possibile alle altre bestie e non combinare guai, e quindi insomma, no? Questo si chiedeva ad una mucca, ad una capra, ad una pecora, e questo è stato fatto. Chissà che animali erano prima, sono stati animali belli come tanti che ancora ci sono oggi, no? Però invece sono diventati così. perché serviva questo. Ecco, questo esempio pure per dire che a noi potrebbe succedere la stessa cosa, cioè potrebbero sostanzialmente farci lo stesso tipo di trattamento. Ecco, su questo forse facciamo un'altra pausa. Chi è questa signorina che brucia sempre? No, noi non lo sappiamo, però ci siamo rilassati anche noi e possiamo quindi dedicarci all'ultimo terzo di trasmissione. Parliamo ancora un po' di questi caschi neurali. Sappiamo che li stanno provando su soldati stressati negli Stati Uniti e sappiamo che spesso ci sono dei trattamenti post-traumatici per soldati che prevedono anche l'uso di chip. E un altro esempio è l'ospedale di Gerusalemme, dove vengono sperimentati elettrodi sul cervello e attraverso un collegamento di questi elettrodi a un computer situato sul torace, e ci sono sostanzialmente delle scariche che vengono lanciate in particolari aree del cervello e che vogliono paralizzare l'area responsabile della depressione. Quindi la ricerca è questo: ci sono aree del cervello che sono quelle responsabili della depressione umana, e in questo modo si riesce a tacitare quell'area, e quindi la persona malata di depressione ha un enorme giovamento, no? Non funziona sempre, quindi comunque ancora lo stanno ancora migliorando, però chi lo ha provato dice che in effetti scompare questo buco nero enorme, no? Questo tormento per chi appunto ha questa terribile malattia. E ci sono stati anche casi di persone che dopo anni sono tornate con di nuovo la depressione. Hanno fatto delle analisi e hanno visto che il problema era che aveva la batteria scarica, quindi sono state sostituite le batterie al computer toracico e la depressione è andata via di nuovo. Ecco, questa roba degli elettrodi chiaramente per ovvi motivi è una cosa così un po' difficile da portare avanti nel mondo delle malattie mentali, quindi sono passati poi ad utilizzare dei caschi che tecnicamente vengono chiamati degli stimolatori transcranici a corrente diretta. Questo è il nome complessivo, quindi appunto questi provati anche questi su soldati negli Stati Uniti, e ci sono degli elettrodi all'interno del casco e vengono mandate delle deboli dei deboli campi elettromagnetici verso aree cerebrali specifiche, o con l'idea di inibirle o con l'idea di stimolarle. E questo a cosa serve? Perché lo stanno provando sui soldati? Perché è importante essere concentrati durante una battaglia, no? Quindi per avere prestazioni alte, concentrazioni e attenzione. Queste capacità cognitive peraltro sono ottime anche per i piloti di droni o per i controllori di volo oppure per i tiratori scelti, no? Ebbene, questa potrete dire sì, ma questa è roba militare, cioè non è difficile, no, conoscerla. È successo ad una giornalista, Sally Adee, giornalista del New Scientist, che ha avuto l'opportunità nel corso del suo lavoro di provarlo durante un lavoro che stava facendo proprio in uno di questi centri, e sostanzialmente la cosa è andata così. È stata messa all'interno di un simulatore militare, racconta che sostanzialmente vedeva arrivarsi uomini armati fino ai denti, e il suo compito era quello di ucciderli con delle armi in maniera virtuale, quindi diciamo un simulatore, insomma, diciamo di realtà virtuale, no? Però racconta che, diciamo, entrando così aveva una terribile paura, perché ne uccideva uno e ne arrivavano altri tre, poi che erano tutti vestiti con, non so, giubbotti, esplosivi, fucili, passamontagna, e quindi sostanzialmente inizialmente, non avendo mai provato una roba del genere, è stata assalita dalla paura. Poi il suo fucile, quello con cui sparava, spesso si inceppava, quindi non riusciva poi a sparare a questi personaggi virtuali che si vedeva arrivare attraverso il simulatore. E poi cosa succede? Poi succede una cosa, cioè succede che vada ad indossare questo casco speciale di cui stiamo parlando. Dice così che si ricorda giusto un lieve formicolio appena messo in testa il casco, e un sapore metallico in bocca. Queste sono le uniche cose che ha notato mettendo questo casco, quindi né rumori né altri fastidi magari legati a una sensibilità alle onde, niente di tutto questo. Ebbene, a un certo punto ha cominciato a lottare e riusciva ad abbattere tutti questi terroristi, no? Tipo Rambo, entrava con il suo fucile, stavolta non si cempava mai, li faceva fuori tutti. Diciamo, racconta di avere avuto una incredibile lucidità. Sentiamo proprio le sue parole. Mentre 20 di loro mi corrono incontro brandendo i mitra, io sollevo tranquillamente il mio fucile, faccio un respiro profondo e sparo a quello più vicino. Poi scelgo con calma il prossimo bersaglio. Dopo quello che mi è sembrato un attimo, sento una voce gridare: «Ok, basta!» Nella sala si riaccendono le luci. Nella quiete improvvisa, fra i corpi intorno a me, mi aspettavo davvero di vedere arrivare altri aggressori, e rimango un po' delusa quando iniziano a togliermi gli elettrodi. Alzo lo sguardo e mi chiedo se qualcuno abbia spostato in avanti le lancette dell'orologio. Inspiegabilmente sono passati 20 minuti. «Quanti ne ho presi?» chiedo all'assistente. Lei mi guarda perplessa. «Tutti». Ecco, questo è il racconto di questa giornalista. Quindi questo esperimento le cambia la vita, diciamo, lo vive come un'esperienza mistica. Sostanzialmente tutto nella sua testa era zittito, cioè aveva un grande silenzio. Questo è un punto importante, no? E si sentiva quindi più intelligente, con voglia di imparare più in fretta. Quindi il cervello privo di incertezze, nel silenzio più totale, e quindi con una lucidità di base. Lei ha desiderato poi per settimane tornare lì in questo posto, perché insomma chiaramente è un'esperienza del genere, uno la vuole riprovare, no? E si è poi cominciato a chiedere chi sono, chi sono io senza questi pensieri intrusivi che sono stati zittiti dal casco, no? Cosa sono questi pensieri intrusivi che sono nella mia mente? Da dove vengono queste voci? Allora, chiaramente la risposta che si è data e che magari ci possiamo tranquillamente dare anche noi: i pregiudizi della società, la storia personale, una componente genetica, tutto questo contribuisce a una narrazione invisibile che dà forma alle nostre decisioni. Quindi tutto quello che noi pensiamo quando stiamo prendendo una decisione viene necessariamente influenzato da queste voci di contorno. Questo casco li annienta completamente. Insomma, anche qui ci si riflette un po'. E poi, fra l'altro, non si conoscono gli effetti a lungo termine, quindi sono rischi ignoti, non sappiamo se di fatto saremo in grado di effettivamente manipolare le trasmissioni tra neuroni, soprattutto non sappiamo che cosa succederà quando questo dovesse avvenire. Quindi certo, il sistema vuole che si lavori in maniera sempre più produttiva, ma uno può anche desiderare di studiare, di giocare, di fare un passatempo, di imparare uno strumento musicale. Quindi ci sono delle ricadute anche personali importanti in questa vicenda che non sono da trascurare, no? Altrimenti diciamo semplicemente approccio luddista e punto, no? Ecco, quello che quindi vogliamo dire, insomma, andando un pochino alle conclusioni, questo tecnoumanesimo è un po' una, se non una religione, diciamo una setta. Noi sappiamo che il desiderio umano, la volontà umana sono sempre state ritenute dall'umanesimo il bene più grande, no? La cosa più importante che caratterizza Homo sapiens. Ma cosa succede se noi andiamo addirittura a modellare i nostri stessi desideri? Cosa ne è della nostra volontà? Già normalmente, no, può succedere anche normalmente di mettere a tacere le nostre voci interne, no? Appunto, don't ask, don't tell, come dicono gli americani, cioè non farti domande, lascia stare, no? Oppure magari invece dall'opposto di questo, ascolta il tuo autentico te stesso, no? L'autentico te stesso, ammesso che esista, no? Come abbiamo visto già, insomma, nelle puntate precedenti. In generale, diciamola così, il progresso tecnologico vuole controllare le nostre voci, queste voci interiori, e allora all'avvocatessa che rinuncia ad avere un figlio per il proprio lavoro gli diamo il Ritalin, al soldato depresso gli diamo il Prozac e alla moglie insoddisfatta il Cipralex. Ecco, questo detto con una battuta, ma questo già può avvenire, no? Anche senza la tecnologia. Del resto noi i nostri desideri autentici potrebbero semplicemente essere il prodotto di squilibri biochimici o malattie neurologiche. Quindi chi l'ha detto, no, che in questi desideri debba esserci per forza qualcosa di autenticamente nostro e quindi in quanto tale quasi misticamente venerabile? D'altronde è anche vero che la depressione in effetti è una malattia molto grave, per cui potersene disfare è una cosa sicuramente positiva, no? Il punto è: se impariamo a plasmare la nostra volontà, plasmarla e riplasmarla, come faremo poi a percepirla? Come facciamo poi a considerarla la sorgente ultima di ogni significato? Perché questo è il pensiero umanista, no? E quindi anche la sorgente dell'autorità, no? Quindi andando anche al discorso politico, no? Quindi non importa quello che dici, potremmo farti dire qualcos'altro. Allora attenzione a parlare di essere umano come, diciamo, no, il chiodo a cui è appeso tutto l'universo, no? come dice il pensiero umanista, perché se sto chiodo è piazzato male, diciamo, diciamo la tecnologia lo può piazzare altrove, e quindi può non essere necessariamente una notizia negativa, no? Pensiamo al dramma di Romeo e Giulietta, no? Se avessero potuto prendere invece che il veleno il casco neurale oppure una pillola che stimola determinati processi biochimici. E niente, quindi diciamo che questo è un po' la contraddizione a cui arriva il tecnoumanesimo, cioè quello di continuare a pensare ad un essere Homo sapiens che dovrebbe semplicemente evolversi, diventare Homo Deus per poter tenere il passo di altri esseri, di altri algoritmi, delle macchine, poi però si arriva all'assurdo per cui di fatto modificandosi in questo modo si perde l'essenza stessa dell'essere, dell'uomo, e quindi probabilmente è un po' un collassare su se stesso del pensiero umanista. Allora c'è tutta l'altra parte che vedremo appunto la prossima volta, che invece dice no, recidiamo completamente il cordone con Homo sapiens e pensiamo direttamente a un'altra autorità totale che governerà non solo il pianeta Terra ma l'intera galassia, no? E cioè l'informazione. Ecco, ci lasciamo su questo e vediamo la prossima puntata, la religione del datismo. Allora, Entropia Massima finisce qui e ci diamo appuntamento al prossimo lunedì. Un abbraccio a tutti e a tutte.